L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata nella quale prima vi presenteremo le vincitrici del concorso BCFN Yes, ovvero il concorso che la Fondazione Barilla for Food and Nutrition riserva ogni anno a dottorandi e ricercatori under 35 di qualsiasi nazionalità per progetti di studio in ambito agroalimentare e di nutrizione. Quindi andremo a Napoli, dove in settimana sono stati presentati i risultati del piano Campania Trasparente. Nato all'indomani dell'allarme per l'inquinamento della cosiddetta Terra dei Fuochi, per supportare le aziende agricole campane e poi cresciuto fino a diventare una ricerca d'ampio spettro, sì sulle aziende, ma anche su aria, acqua, terra e salute dei cittadini. Andiamo con ordine però e cominciamo dall'ottava edizione del Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione organizzato dalla Fondazione Barilla. Ne abbiamo anticipato qualche contenuto la scorsa settimana, ci sono stati tanti e grandi ospiti, ma c'erano anche tantissimi giovani studiosi di mezzo mondo, finalisti del concorso BCFN Yes. Quest'anno sono arrivate 135 proposte provenienti da 43 paesi. 10 sono state selezionate per la finale e infine hanno trionfato due proposte di ricerca. Quella di Laura Garzoli, dell'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del CNR sulla sostenibilità nella produzione del riso, e l'altra di un duo formato da Johanna Buritzk, libanese, e Teresa Jeremias, tedesca, entrambe della Università tedesca di Hohenheim, che hanno presentato un progetto di nutrizione equilibrata dedicato ai rifugiati, in particolare siriani, in Libano. Il Libano ospita al momento, vale la pena ricordarlo, il più alto numero di rifugiati al mondo. In definitiva sono ogni 4 libanesi un rifugiato. With our project we are looking at addressing maternal and child nutrition. Il nostro progetto, ci dice Johanna Buritzk, è dedicato al miglioramento della nutrizione delle future mamme e dei bambini. Intendiamo portare avanti due studi, uno sull'anemia in donne e bambini nella sua associazione con l'insicurezza alimentare di questo contesto, ma anche rispetto alle abitudini nella nutrizione dei piccoli e la salute mentale. Quindi ci sarà una fase di educazione o rieducazione alimentare. Lavoreremo con le donne per questa parte dell'educazione alimentare, racconta Teresa Jeremias. Intendiamo insegnare ricette della tradizione, ma anche nuove, che abbiano un alto contenuto di ferro e che possono quindi essere di sostegno nella cura e nella prevenzione dell'anemia. Loro, come Laura Garzoli, portano a casa una borsa di ricerca da 20.000 euro. Che tipo di indagine sta compiendo la vincitrice italiana ce lo ha spiegato lei stessa. Il mio progetto si basa sui pipistrelli e sulla loro utilità nelle coltivazioni del riso, perché sono dei fondamentali predatori di insetti, fra i quali molte delle pesti che affliggono i campi. E tramite l'installazione di bat box, che sono queste nidi artificiali per richiamare i pipistrelli nelle risaie, noi andremo ad analizzare tramite il guano gli insetti che vengono predati, e fornendo anche delle informazioni molto precoci sull'insorgenza di nuove pestilenze che potrebbero affliggere i campi. Questa indagine dove dovrebbe essere fatta? Dunque, le attività pilota verranno condotte in Piemonte, c'è un'azienda agricola che ospiterà le attività, e poi però questa attività dovesse risultare molto apprezzata dai risicoltori verrà ampliata con la collaborazione della Fondazione Barilla ad altre realtà produttive sempre in Nord Italia, e si spera anche di esportare il progetto in altri stati europei coinvolti nella produzione del riso. E a questo punto andiamo a Napoli. Perché nei giorni scorsi, come anticipavamo, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha reso noti i dati di un grande progetto di ricerca partito dopo la grande crisi per le aziende agricole campane, derivata dall'allarme per la cosiddetta Terra dei Fuochi, che è una piccola porzione del territorio campano tra le province di Napoli e Caserta, che però ha mandato in tilt tutti gli agricoltori e gli allevatori campani, per non parlare delle preoccupazioni che ha suscitato per la salute dei residenti. Dell'origine di questa crisi e di quanto di vero ci fosse in quell'allarme parleremo poi nella seconda parte di questo programma. Ci terrei che restaste tutti a sentire il dettagliato racconto e l'analisi del professor Massimo Fagnano della Facoltà di Agricoltura dell'Università di Napoli, che ha introdotto i lavori del convegno dedicati al progetto Nuova Campania. Intanto però facciamo presentare questo lavoro al coordinatore, ovvero il direttore dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, che si chiama Antonio Limone. Abbiamo messo su almeno una cinquantina di gruppi di ricerca intorno. Questo è un lavoro al quale complessivamente hanno collaborato quasi 2000 persone, che a vario titolo e con varie competenze, quindi avendo pezzi pregiati che hanno studiato il fenomeno della terra dei fuochi. Noi abbiamo sostanzialmente sgretolato un teorema che era poi sbagliato sia nei presupposti che nelle conseguenze. Visto che abbiamo la terra dei fuochi in Campania, le produzioni campane sono contaminate. E quindi potenzialmente pericolose. Abbiamo dimostrato con dati scientifici che non è così. Abbiamo determinato un fenomeno molto chiaro, abbiamo circa 33 ettari di terreni contaminati dai quali non viene fuori produzione che finisce sulle tavole. Abbiamo determinato però la qualità del terreno e delle acque, delle falde acquifere superficiali e profonde, del terreno di superficie e del terreno profondo, dell'aria. Tutto questo è stato fatto anche un lavoro molto importante relativo al cibo, quindi abbiamo analizzato circa 10.000 aziende, abbiamo fatto circa 30.000 esami sul cibo e abbiamo 6 non conformità. Quindi con questi numeri noi possiamo dire senza tema di smentita che la Regione Campania è una regione che fa i controlli, li fa in modo serio, minuzioso, non è una regione che appartiene a quelle che fanno gli avvelenatori, non siamo avvelenatori, non abbiamo la maglietta nera di essere un terreno contaminato che costituisce un rischio per la salute umana, siamo invece una realtà della biodiversità che in modo pregiato ha cibi di qualità, ha produzioni di grande qualità, ma soprattutto ha un ambiente che viene costantemente monitorato. E le criticità che abbiamo credo che non siano né più e nemmeno che quelle che si hanno anche in tanti altri posti, forse anche un po' meno, atteso che spesso che lo studio che abbiamo fatto per stabilire il nesso di correlazione tra ambiente e salute, cioè quanto contaminante migra dall'ambiente, arriva all'uomo e modifica il suo genoma, questo risultato fatto su 4.200 persone alle quali abbiamo prelevato il sangue ci dimostra oggi un primo dato, che i metalli pesanti contenuti nel sangue di queste persone sono al di sotto di una media nazionale. Quindi insomma, i dati diciamo che non giustificano quell'allarme che c'era stato. Non giustificano quell'allarme, hanno svelato il pregiudizio, abbiamo sgretolato un teorema e ne abbiamo fatto uno stigma. Il segno forte di un'attività che oggi stiamo portando avanti con l'Istituto Superiore di Sanità e che potrebbe diventare, non senza impegno, un modello di riferimento a livello regionale, a livello nazionale e forse anche oltre. Perché che intesa siglerete? È proprio questa con l'Istituto Superiore di Sanità oggi? Tre dipartimenti dell'Istituto Superiore collaboreranno con noi, quindi ambiente, salute, sicurezza alimentare. Noi che cosa tentiamo di costruire adesso? Abbiamo fatto di questa esperienza un percorso e ne vogliamo far diventare un modello. Avere la possibilità di capire un fenomeno partendo dall'ambiente, arrivando al cibo e poi alla salute umana, per noi significa costruire un percorso importante che dal punto di vista scientifico oggi potrebbe persino modificare un approccio alla medicina di prevenzione, cioè vai a fare altri tipi di esame per capire che se ci sono criticità. E non solo lo screening, che è una valutazione che però avviene a valle di un fenomeno perché lo legge quando già c'è. Tutto questo significa non consumare studi così importanti in solitudine, farlo servendosi dei migliori motori di ricerca di questa nazione e con l'Istituto Superiore di Sanità, che è un organo importante dello Stato e che fa da garanzia, io credo che noi potremmo fare un ottimo lavoro. Bianca Maria Pirri è invece ricercatrice del progetto SPES, quindi di quella parte dedicata alla salute della popolazione, e ci illustra i primi risultati del loro lavoro, inteso che questo dei controlli sulle eventuali ricadute sulla salute umana dell'inquinamento ambientale sarà il lavoro più lungo. SPES è un biomonitoraggio, quindi è uno studio di popolazione che ha raccolto informazioni, dati e campioni su 4.200 individui, persone, cittadini campani che hanno deciso di dare un proprio contributo alla ricerca. Essenzialmente SPES quindi è uno studio epidemiologico, trasversale però, perché non si ferma alla mera osservazione di un fenomeno così come da epidemiologia classica, ma integra le informazioni e i dati che provengono anche dai risultati sperimentali sull'ambiente. Quindi i risultati, i contaminanti che ricerco nell'ambiente, nel suolo, nell'acqua, nell'aria, li cerco anche nei fluidi biologici umani, li cerco nel sangue dell'uomo. Questo vi consente che cosa? Di riunire più dati, di avere più ampiezza di visuale? Che cosa comporta questo tipo di lavoro nuovo? Comporta la consapevolezza del fenomeno, capisco qual è la sorgente di contaminazione, qual è il percorso di migrazione del contaminante e quindi come arriva al bersaglio ultimo che è l'uomo, l'uomo così come gli organismi viventi, perché ci sono attività anche per la parte veterinaria. Il primario obiettivo di SPES è quello di valutare l'esposizione, quindi ricercare essenzialmente il contaminante, il metallo pesante o la diossina, gli idrocarburi che sono potenzialmente presenti nel territorio e che ricerco nelle altre matrici, anche nell'uomo, e capire qual è il possibile effetto biologico precoce che questo contaminante induce nell'organismo, qual è la risposta del mio corpo al danno che può essere indotto, e quindi valutare poi a valle un esito in termini di possibile insorgenza di patologie. Ovviamente i risultati di questo lavoro arriveranno lentamente, qualcosa però già si comincia a evidenziare, che cosa? Esatto, nel primo step di fase analitica abbiamo condotto le indagini sui metalli pesanti per valutare come biomarcatore di esposizione. Il dato è rassicurante perché l'andamento generale vede una concentrazione media di metalli pesanti inferiore rispetto alla media nazionale. A seguire quindi stiamo approfondendo le analisi sulla parte dei contaminanti cosiddetti organici, ovvero le diossine e gli idrocarburi. Seguiranno poi l'approfondimento analitico sull'effetto, quindi quello che dicevo prima, ciò che l'organismo produce in risposta al danno che potenzialmente ha subito. A questo punto ci fermiamo, facciamo una pausa, proseguiamo tra poco. Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6.30 puntuale. Alle 6.30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6.30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, e la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. L'altro pianeta. Ancora buon pomeriggio da Laura Bettini per questa seconda parte della puntata di oggi che dedicheremo esclusivamente a una intervista che mi sembra importante trasmettere come dimostrazione di capacità di ascoltare le critiche e imparare la lezione, almeno per quel che mi riguarda. Personalmente da questo microfono non mi accanii mai contro i produttori della campagna ai tempi dell'allarme Terra dei Fuochi, però anch'io ho avuto delle esitazioni, della diffidenza, senza avere prove. La mia e di tanti sentenza fu emessa in base a degli indizi e a un'immagine che avevamo tutti all'epoca, quella dei rifiuti abbandonati per strada. Come ha detto il direttore dell'Istituto Zooprofilattico, la nostra inciviltà ci ha costruito quest'immagine di avvelenatori. Ecco, su questa immagine si è innestato all'epoca il racconto di un pentito di camorra. E da qui lascio la parola al professor Massimo Fagnano, che insegna agronomia ed ecologia agraria alla Università di Napoli. Vabbè, la prima tappa, dobbiamo capire qual è la sequenza degli avvenimenti che sono successi. Il primo avvenimento è stato questo pentito che ha ricominciato a raccontare le stesse storie che raccontava anni fa. Allora, io pure mi sono chiesto perché, qual era il suo interesse a ricominciare a parlare dopo 16 anni. Un magistrato mi ha detto che aveva ricominciato a parlare perché gli era scaduto il programma di protezione e aveva bisogno di soldi. Aveva bisogno di soldi e quindi si voleva ricostruire una sua verginità. Quindi è nato da un interesse molto concreto, molto personale, è nato un fenomeno che poi alla fine ha travolto l'intero comparto agricolo della regione. Successivamente, che cosa è? Qui stiamo parlando del marzo-aprile 2013, poi a luglio 2013, quindi in piena estate, cominciano a sequestrare i primi pozzi a Caivano, sulla base dei superamenti di una certa tabella della 152, dimenticandosi di tutti gli studi che poi ha fatto il professore De Vivo sulla geochimica ambientale delle nostre zone, perché se stiamo ai piedi di un Vesuvio, di un vulcano come il Vesuvio, è normale che ci sia una certa ricchezza di minerali. Parlo di fluoruri, manganese, ferro, solfati nelle acque. Allora, sequestrare un pozzo perché c'ha troppi solfati, considerando che noi agronomi come concimi usiamo prevalentemente i solfati, mi pare una cosa che non sta né in cielo né in terra, non ha nessun senso se non l'ottuso rispetto di una certa tabella. È una forzatura della legge, perché la legge italiana ci dice che quando si superano i valori di quella tabella, un sito viene definito potenzialmente contaminato. Per poterlo definire contaminato e quindi meritevole di provvedimenti di sequestro, di interdizione e quant'altro, bisogna fare un'analisi di rischio. E allora, quando mai il fluoro e il manganese nelle acque irrigue hanno potuto rappresentare un rischio per la salute? Quindi sono stati fatti dei sequestri senza fare analisi di rischio. La Cassazione, ringraziando il cielo, ha messo a posto questa procura, mettendo un punto fermo: tu non puoi sequestrare e rovinare una, perché gli agricoltori ne sono falliti. Chi poteva e aveva le spalle coperte ha fatto ricorso e ha vinto il ricorso. Perché non si possono sequestrare dei terreni per il superamento del beryllio. Senza considerare i prodotti di quei terreni. Esatto, perché poi la legge che dice, superati le soglie di rischio, il sito può essere dichiarato contaminato. Ma le soglie di rischio non sono state superate, le analisi di rischio sono tutt'altra cosa. E alla fine è il prodotto che ti dice se è idoneo o non è idoneo un certo sito all'uso agricolo. A Brescia come fanno? Hanno livelli di inquinamento 10-100 volte più alti dei nostri. Che fanno a Brescia? Analizzano i prodotti, se i prodotti sono sani, mica si sono sognati di interdire alla coltivazione i suoli di Brescia dove stava la Caffaro, e stiamo parlando di suoli altamente inquinati. Questa è un pochettino la storia che a me mi dispiace dirlo, non so se lo posso dire, ma i media l'hanno cavalcata in una maniera proprio alla grande. No, io ho sentito molto sospetto di complotto, oltre che di ignoranza da parte dei media, che chiaramente c'è dell'ignoranza. I media fanno il loro lavoro, che è quello di acchiappare audience, di avere qualche punto di share in più, allora fanno queste trasmissioni scandalistiche, tipo Inferno Atomico, tipo la trasmissione delle Iene, che è rimasta famosa. Io la faccio vedere ai miei studenti, perché loro devono capire. Non so se lei si ricorda quella trasmissione, ma hanno detto che noi esseri umani ci mangiamo le radici di pomodoro, e considerando l'accumulo di manganese nelle radici di pomodoro si può immaginare che uno, mangiandosi le carote che possono essere assimilate alle radici, stiamo parlando di fantascienza, chiaro, e quella trasmissione ha fatto dei danni, cioè ha convinto la gente che questi prodotti sono contaminati. Dopodiché, che cosa è successo? Una crisi del mercato agricolo, i mercati nazionali e purtroppo anche regionali si sono chiusi e sono rimasti aperti i mercati internazionali, nel senso che stavo proprio io a Giugliano, dal più grande produttore italiano di fragole, tra parentesi, quando sono arrivati gli ispettori austriaci, che hanno fatto in maniera molto pragmatica, no? Hanno fatto dei campionamenti, non hanno detto niente a nessuno, si sono portati i prodotti e il terreno e le acque in Austria, le hanno analizzate e hanno confermato gli ordini, basta. Per cui molte aziende che hanno trovato le porte sbarrate sui mercati nazionali si sono riorganizzate per i mercati internazionali. Questa cooperativa, che prima vendeva sui mercati esteri il 30% della sua produzione, del suo fatturato, ora vende il 97% del suo fatturato sui mercati esteri. Quindi le fragole più buone del mondo, cresciute ai piedi del Vesuvio, oggi se le mangiano gli europei e non più gli italiani. Questo è stato il risultato. D'accordo? Perché? Perché all'estero, io lo devo dire, io sono orgoglioso di essere europeo, un po' meno orgoglioso di essere italiano, perché in Europa si sono comportati bene, hanno sentito che c'era un problema. La campagna mediatica è arrivata anche in Europa, ma loro sono venuti a verificare. Hanno verificato e si sono comportati onestamente. Cosa che non è successa invece con i grossi piattaforme logistiche della Pianura Padana. Hanno forse approfittato invece di questa situazione. Speculato. Hanno speculato chiedendo sconti sui prezzi. e quindi chiedendo un ribasso. Onestamente anche peggio, nel senso che dici, non ti chiedo neanche un'analisi, ti chiedo solo di vendermela poco. Esatto, questo è stato. Allora, questa iniziativa che hanno organizzato di campagna trasparente ha la funzione fondamentale di ricostruire un'immagine. D'accordo, ricostruire un'immagine su dei prodotti che sono stati penalizzati da disvalore che rappresenta il nostro territorio. Questo è stato un po' tutta l'evoluzione del problema e dell'impatto sul mercato agricolo. Oggi, ma già un anno fa, si sapeva, perché ormai si sa, i dati sono ufficiali, sono disponibili, chiunque se li può scaricare e andare a leggere, che non è quello il problema. E allora dico io, mettiamo un punto e cominciamo a fare le cose serie. Noi abbiamo le discariche? Sì. Queste discariche sono messe in sicurezza? No. Una discarica non messa in sicurezza produce percolato, che potrebbe andare nelle falde prima o poi, e produce emissioni gassose che potrebbero essere un rischio per la salute agricola. Allora, le vogliamo mettere in sicurezza queste discariche? Sì o no? Questo lo chiede ai politici. Ci vogliono 30-40 milioni di euro per mettere in sicurezza tutte le discariche della regione Campania. Lo vogliamo fare? Vogliamo cominciare a pensare ai problemi seri? Questo è uno. L'altro problema serio, e forse pure un po' più complesso da risolvere perché diffuso, non è puntuale, è quello degli sversamento dei rifiuti lungo le strade. Chi è che sversa i rifiuti lungo le strade? Sì, c'è il cittadino. C'è un altro problema serio, che sono gli scarti di demolizione, i calcinacci, che sono, non so la percentuale, però nella mia esperienza personale la stragrande maggioranza dei rifiuti sono calcinacci. Che significa? Che quando un'impresa ti ristruttura casa, va a smerzare i calcinacci in mezzo alle campagne. Perché lo fa? Perché la maggior parte delle imprese edili che fanno queste piccole lavorazioni sono imprese in nero. E un'impresa in nero che non esiste non può accedere alle piattaforme ecologiche e quindi non può smaltire in maniera legale i calcinacci e quindi è costretta a buttarli da qualche parte. E allora c'è una eccessiva tolleranza nei confronti del lavoro nero. Io lo dico paradossalmente che viene quasi vissuto, percepito come un ammortizzatore sociale e si lascia fare. Poi c'è l'evasione fiscale. Hanno beccato quelli di grosse ditte di elettrodomestici che lei sa che hanno l'obbligo di ritirare l'usato e avrebbero anche l'obbligo di riciclare l'usato se vendessero tutti gli elettrodomestici con fattura. E quindi li danno alle ultime ruote del carro, ai primi disperati che trovano, 50 euro, questa è la tariffa, smaltiscono un camioncino con 3-4 frigoriferi e li danno a questi personaggi che poi vanno sul territorio, riciclano il rame, quello che possono riciclare, e danno fuoco. E quindi si bruciano questi materiali, è successo davanti ai nostri occhi una volta. Quindi c'è l'evasione fiscale. E l'evasione fiscale, anche questa, purtroppo viene percepita come un ammortizzatore sociale. Quindi c'è, secondo me, una forma di eccessiva tolleranza nei confronti di questa illegalità, che produce dei rifiuti. Non credo che ci sia molto da aggiungere a questo racconto del professor Fagnano di una campagna che ha tanti difetti e tanti problemi innegabili, ma che vanno conosciuti e valutati e non ripetuti, diciamo così, di seconda mano. Chiudo questa puntata terapia. Io ho passato mezz'ora del mio tempo a farmi insultare, come categoria non personalmente, dal governatore della Campania De Luca, che avrà le sue buone ragioni per avercela coi giornalisti, come i cittadini però possono avere tante buone ragioni per avercela con i politici e metterli ad esempio tutti nella categoria dei ladri. Fa piacere al politico non ladro? Non credo. Serve a qualcosa fare una grande categoria e tirare lo sciacquone? Non credo, nemmeno in questo caso. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.